Abbiamo fatto proprio veloce veloce, come si dice. Siamo tornati insieme perché oggi vogliamo parlare di creatività, è un ingrediente fondamentale a tutte le età, Alberto. Mi vengono le rime, ma è così, nei bambini, negli adolescenti e poi anche quando si diventa grandi, come... Guarda, stavi proprio dicendo mi vengono le rime, sì. Il gioco delle rime da fare con i bambini è uno di quegli esercizi di creatività che ogni genitore dovrebbe cominciare a fare proprio quando il bambino entra nel mondo delle parole. Te l'ho servita su un piatto d'argento. Senti, a proposito di bambini, Enrico, dentro al tuo nuovo CD c'è anche una canzone rifatta dello Zecchino d'Oro. Celeberrima Popoff, che vinse alla fine degli anni 60. Bellissima. Beh, intanto è una canzone carinissima che poi si prestava a questo arrangiamento un po' balcanico che ne ho fatto. E poi Popoff è una canzone importante, secondo me, perché non so quanto siano stati consapevoli gli autori, ma hanno scritto una canzone su un antieroe, perché in un periodo in cui i bambini ovviamente sono affascinati da quelli che vincono, Zorro, i Fantastici Quattro, chi più ne ha più ne metta, porre l'attenzione e la tenerezza su uno un po' maldestro, su questo cosacco un po' sovrappeso che in qualche modo non vince, è, secondo me, fu educativo, ecco. Si può essere simpatici anche se non si arriva primi, e questo nella vita serve. Professor Perna, volevo chiederle una cosa. Abbiamo detto che si può coltivare, educare la creatività, ma in realtà che cos'è? La creatività vuol dire essere intelligenti, brillanti, trovare l'altro lato delle cose. Che cosa si deve fare essere per essere creativi? Beh, la creatività vuol dire innanzitutto essere plastici. Quindi tanto più siamo rigidi, tanto meno siamo creativi. Tanto più siamo elastici nelle cose, il nostro cervello ha questa caratteristica, tanto più siamo creativi. Quella differenza è che purtroppo tendenzialmente si diventa un po' più rigidi col passare degli anni, tant'è che, e quello è il motivo per cui i bambini sono talmente creativi che veramente fanno un continuo brainstorming della realtà. E il fatto anche che gli adolescenti, in un momento un po' delicato, perché l'adolescente ha un momento particolare in cui ha una potenza del cervello emotivo. Il cervello emotivo è quello che poi fa nascere in qualche maniera e stimola la creatività. Le emozioni sono sempre una guida importante. Però l'adolescente non ha ancora la connessione chiara con la parte frontale del cervello, cioè il cervello saggio. Ed è il motivo per cui l'adolescente è vero che cerca di conformarsi a tante regole, perlomeno regole dei gruppi. Sì. Ma è anche vero che noi sappiamo che se c'è uno che è folle, è l'adolescente. Se ci pensiamo bene, lo stesso comportamento di un adolescente portato a 40 anni porta la persona a essere in galera, chiuso. Perché? Perché andrebbe contro le regole. Andare contro le regole può talvolta essere un segno anche di creatività. Pensiamo ai grandi artisti che a un certo punto inventano, cambiano quello che è lo stile, quindi passano magari da alcune cose codificate a degli stili completamente nuovi. Vuol dire esattamente superare le regole, quindi andare a rompere quello che è la sicurezza e la tranquillità di un qualcosa di codificato. Vorrei riprendere anche quello che diceva prima Enrico Ruggeri rispetto alla creatività in adolescenza. Adesso ci fermiamo proprio su questa fascia d'età. Io penso che questa iperstimolazione fatta da un mondo infinito di schermi, di suoni, di immagini, che davvero sono un flusso continuo, in realtà porti gli adolescenti a non sperimentare mai il primo motore della creatività, che è la noia. Se io mi annoio, se io sto da solo con me stesso nell'incapacità di trovare nell'ambiente che mi sta intorno qualcosa che mi stimoli, a quel punto io devo diventare il creatore di uno stimolo che mi fa uscire da questo stato di frustrazione. E credo che una parte del blocco della creatività nei nostri ragazzi sia fortemente associato al fatto che in qualsiasi luogo in cui sono basta schiacciare un bottone e il mondo iperstimolante ti arriva senza fare alcuna fatica. Ma domando a voi cosa ne pensate. Sì, è vero, però è anche vero che i ragazzi sono in una tale overdose di cose che si annoiano lo stesso. Non necessariamente noi ci ricordiamo di quando magari abbiamo comprato un sacco di giochi ai nostri figli e poi hanno passato un pomeriggio con due tappi di bottiglia. Sì. Allo stesso modo, quando le stimolazioni, come dici tu, sono così serrate, poi ci si annoia lo stesso. Quindi credo che alla fine tutto sia relativo in questo senso. Professor Perne, lei che mi dice? Io la riflessione che faccio è che il silenzio diventa uno spunto cruciale per la creatività, e questo credo che valga, poi mi correggerà il nostro super cantante ospite e anche cantautore peraltro, che sono nei momenti in cui uno è tranquillo con se stesso che poi vengono fuori, cioè è difficile produrre qualcosa di nuovo nel caos oppure nel momento degli impegni. Quindi sicuramente il tentativo di trovare una noia efficace, chiamiamolo così, è una noia in cui uno sta con se stesso, perché ha ragione Ruggeri sull'affermazione che anche nel troppo si arriva alla noia. Peccato che diventa una noia che non lascia spazio al cervello e alla creatività. Enrico, allora, mi sembra che il professor Perna ci abbia lanciato una buona palla. Sì. Quando sei particolarmente creativo tu? Ci sono dei momenti, poi ciascuno di noi ha i suoi. Quando mi parlano, mi chiedono come vivi la solitudine, io dico che la solitudine è uno dei premi più alti che mi siano stati dati dalla vita, perché ogni tanto rimanere da soli, indubbiamente, insomma, è il momento in cui tutto quello che hai immagazzinato si mette in moto, quindi è fondamentale. Poi magari bisogna anche andarsela a cercare la solitudine. Io adesso, una volta per scrivere dovevo scrivere di notte, staccare il telefono eccetera, adesso mi sono rassegnato, riesco a isolarmi anche magari a scrivere una canzone mentre a pochi metri da me mio figlio piccolo fa dei versi con in mano un bambolotto. Ma sempre di solitudine si tratta solo di, insomma, riuscire a estraniarsi con più forza, però sicuramente il silenzio è il grande momento nel quale affiorano tante cose se sei un po' creativo. Alberto, il silenzio, abbiamo detto, è indispensabile. D'altra parte vediamo, almeno anche avremo degli amici che ci sembrano particolarmente creativi, sono persone curiose che assaggiano. Accanto a me il mio amico Alberto Pellai, ad esempio, fa mille cose, perché tu sei medico, lavori all'università, scrivi testi per genitori, scrivi i testi per le canzoni dello Zecchino d'Oro, per cui sembra che la creatività prenda spunti e energie, si nutra di tante cose diverse e abbia diversi modi di manifestarsi. Insomma, è quasi un ciclo che si autoalimenta, o sbaglio? Poi correggetemi voi. Ma io credo che la creatività abbia bisogno di alcune caratteristiche di base, un minimo di talento, un tuo potenziale, per cui io sono molto più un uomo di parole che di numeri e mi è molto più facile creare, per esempio, storie o scrivere libri. L'altro aspetto che per me è stato potentissimo è stato diventare padre, cioè quando sono entrati i miei figli in casa mia, il dover tutti i giorni mettermi ad altezza di bambino, cioè guardare proprio il mondo all'altezza del loro sguardo, secondo me ha spalancato proprio dentro di me delle porte, delle finestre, mi ha fatto andare a ritrovare dei luoghi e degli spazi interni che io non avevo mai abitato prima, per cui, per dire, per me è diventato molto facile inventare storie, inventare filastrocche, e se non avessi avuto i miei figli, secondo me questa parte creativa di me probabilmente non sarei mai andato a cercarla. Professor Perna, quindi è possibile che dentro i nostri figli sonnecchi una creatività e che noi in qualche modo possiamo aiutarli a risvegliare e a potenziare? Beh, sicuramente quello che ha detto Alberto è degno di grande riflessione, perché mi ricordo anche l'esperienza personale, anche quando è nato mio figlio io ho imparato che esisteva la mattina, esistevano le carrozzine, cioè noi a un certo punto, a seconda dei cambiamenti dei contesti, vediamo cose che non vedevamo prima, quindi talvolta non è che noi creiamo una cosa ex novo, semplicemente apriamo gli occhi su realtà differenti. Per fare ciò dobbiamo cambiare punti di vista. Cambiare punti di vista vuol dire sperimentare, quindi è un circolo vizioso virtuoso che ci permette di aprire. Per quello chi è molto attivo e fa tante cose diverse è anche creativo, perché trova molti stimoli. Peraltro, se io sono troppo rapido nelle cose, non trovo quello spazio mentale perché fuoriesco a questa creatività, quindi lo spazio mentale per osservare le cose che non mi sono usuali. Enrico, a casa tua c'è anche una mamma molto creativa. Sì. Ci sono anche degli effetti collaterali indesiderati avere tutta questa creatività così concentrata in casa? No, mi chiedo, Dipende un po' dai geni che abbiamo trasmesso a nostro figlio, un po', insomma, bisogna organizzarsi la vita, bisogna avere due pianoforti in due punti diversi della casa, detta volgarmente. E poi c'è comunque il grande piacere di confrontarsi, uno scrive una cosa, poi la fa sentire all'altro, insomma è un po' un laboratorio che si perpetra all'interno della famiglia, che è bello vivere. Stiamo andando in pausa, ma io voglio lanciare una domanda che mi incuriosisce troppo. Enrico comincia a pensarci: se vivendo a fianco di un'altra donna così davvero creativa, che poi ha proprio anche un suo stile molto evidente, che a volte ha contaminato anche il tuo lavoro di artista, sì, tu sei riuscito a capire che c'è una creatività al femminile e una creatività al maschile, ovvero c'è uno specifico nel genere maschile e femminile che declina in modo diverso la creatività? Questa casa non è un albergo. Finalmente siamo tornati, non vedevo l'ora, perché Enrico Ruggeri deve rispondere ad una domanda. Alberto, tu hai fatto una domanda, beh, d'altra parte lui è un creativo, troverà sicuramente la soluzione. Creatività al maschile e al femminile, Enrico? Malgrado mi abbiate dato un po' di tempo, tentenno sulla risposta, per un motivo preciso, che quando si lavora con quella che è anche la propria compagna, la madre di tuo figlio, eccetera, in realtà bisogna scorporare completamente tutte quelle che sono le dinamiche di coppia, no? Cioè tu magari hai avuto il bisticcio tra fidanzati e poi devi dirle che non ti piace un testo che ha fatto, e quindi lei deve essere sicura che il testo non sia bello e che tu non glielo stai dicendo perché hai ancora un po' di rancore per il bisticcio precedente, sì, o viceversa, prima c'è stato un bellissimo idillio e in quel momento tu però le devi dire una cosa che scardina questa, le meccaniche della coppia, per cui sono talmente allenato a non individuare parti maschili o femminili nel momento in cui lavoro con Andrea, che faccio fatica a rispondere a questa domanda, anche perché poi lei arriva molto più codificata di me, lei scrive musica anche senza avere uno strumento davanti, quindi per certi versi temo che sia un po' lei l'uomo, mentre io sono un po' più disordinato creativamente, per cui rimando la palla perché non sono in grado di rispondere. Però ha dato una risposta molto creativa, almeno ha svicolato. Professor Perna, però ha detto delle cose interessanti, almeno degli spunti che mi sembra, conoscendo lei, professor Perna, che so che lei acchiapperà al volo. Sì, sono spunti veri perché nella creatività gioca anche la coppia, quindi ha ragione assolutamente che c'è una serie di influenze importanti. È vero che se noi prendiamo separatamente i due sessi, quindi non uniti perché viene fuori un casino difficile da gestire, sì, ma separatamente, tendenzialmente un certo tipo di creatività, quella emozionale, è il più appannaggio del sesso femminile. È più appannaggio del sesso femminile proprio perché la intelligenza emotiva è un po' più femmina e la capacità di cogliere dei segnali, di intuire la parte di tipo emozionale, le passioni, sembra essere più presente nel cervello femminile. Il maschio che cosa ha? Ha una metodicità molto attenta, per cui è capace in qualche maniera di trasformare più facilmente un elemento creativo in un elemento concreto. Quindi, come al solito, ci sono diversità, ma entrambi i sessi hanno vantaggi e svantaggi, quindi forse minori spunti per l'uomo, ma molta più concretezza, per cui alla fine il prodotto finale l'uomo riesce a farlo molto più spesso, la donna riesce ad avere quelle idee sfavillanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso è l'unione della coppia che funziona bene, quindi esattamente quando c'è una coppia di uomo e donna, di creativi, di musicisti o di quello che vogliamo noi, che si possono venire fuori le cose più belle e più interessanti. Vogliamo dare delle indicazioni ai nostri amici da casa per stimolare, educare, coltivare quella creatività che sonnecchia nei loro figli, oppure perché no, è sveglissima e va comunque alimentata? Allora, direi per i figli più piccoli, davvero il lavoro del genitore, il mestiere di genitore che vuole crescere un figlio creativo è presidiare un po' i tempi e gli spazi in casa per poter essere creativi, che vuole dire 30 minuti senza poter accendere niente, dove però hai a disposizione per esempio delle marionette oppure dei fogli di carta bianca con pennarelli, pastelli, tempere, acquarelli, quello che vuoi tu, un piccolo spazio perfetto, si vede che hai esperienza un piccolo spazio dove si può sporcare, ci si può sporcare e si può pasticciare con cose che fanno rumore.

uscendo dal proprio ambiente, uscendo dalla bambagia in cui noi italiani siamo abituati a crescere, perché nei paesi del nord a 18 anni vengono cacciati di casa e devono muoversi con le loro gambe, e ci mettiamo alla prova. Cominciamo a vedere quanto può essere faticoso tornare a casa la sera a doversi far da mangiare, cominciamo a dover capire di chi ci si possa fidare, di chi non ci si possa fidare. E questi sono aspetti che solo una situazione di rottura come l'Erasmus o come il fuorisede, perché io nella generazione Erasmus comprendo anche coloro che partono dal loro paesino e vanno a centinaia di chilometri di distanza a studiare. Quindi un'esperienza sul campo, Davide, che aiuta a farsi un po' le ossa. Sì, aiuta a farsi le ossa, e non è vero che ci sono tutti questi pericoli, o meglio, i pericoli ci sono ovunque, però si criminalizzano le feste Erasmus, quando poi, secondo me, è molto più pericoloso un lavoratore normale che il venerdì sera, dopo che al mattino si è alzato alle 6, alle 7, va a ballare e torna a casa alle 4. Certo. E inevitabilmente è stanco. Guarda, sono contenta perché da mamma di una prossima, come si chiamano quelli che fanno gli Erasmus? Erasmina? No, non si sa. Sì, ecco, io sono contenta perché penso che sia un momento di crescita, e che quindi un consiglio per i genitori e uno rapidissimo per i nostri giovani che ci stanno ascoltando. Abbiamo scoperto con Alberto che sono tanti, molti ci scrivono, soprattutto universitari, proprio due consigli flash. Consiglio per i genitori è quello di dare fiducia ai propri figli, sì. Perché spesso, sentendo tutti questi pericoli che ci sono in giro, non si dà fiducia ai figli, ma se sicuri di averli educati nella maniera giusta, perché avere timore? Sbaglieranno, ma impareranno. Ce la faranno. E invece per i nostri giovani all'ascolto? Per i giovani, dopo un'esperienza Erasmus, ricordatevi chi avete capito di essere, perché spesso in Erasmus si capiscono delle cose che non si erano capite fino a quel momento, perché non si aveva avuto la possibilità di capirle, e nel momento in cui si torna a casa, le difficoltà, la sensazione di disadattamento porta a rientrare nei vecchi meccanismi, e invece bisogna tenere duro e non tradire se stessi. Grazie allora a Davide Faraldi, ricordo il titolo del libro, Generazione Erasmus, e adesso cosa fai? Noi Alberto rispondiamo, adesso ce ne andiamo, intanto buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.